presidente della comunità montana di Val di Susa. Cosa è successo la scorsa notte? L'altra notte è successo un episodio indegno per qualsiasi stato democratico, nel senso che quel prendere quel prato, entrare in possesso di quel prato in quel modo, penso che sia stato veramente un atto di arroganza politica, perché è ovvio che è stato ordinato dal ministro Pisano, come ha detto anche sul giornale, ma quel prato poteva tranquillamente essere preso dalle forze dell'ordine senza far del male a nessuno, in modo civile e democratico, come si conviene in un paese, in uno stato di diritto. Aver fatto una prova stupida di forza come quello, manganellando cittadini e anziani nel sonno senza nemmeno dare un minimo di preavviso, come si fa solitamente in questi casi, non so a chi giovi, se non a far alzare di moltissimo il livello della tensione. Sì, in questi giorni stavo dicendo a Danilo che comunque la comunità montana di Val di Susa ha dato prova di grossa dignità, determinazione, forza, e questa grossa differenza, no? che comunque non è uno schieramento politico, non è un movimento, ma è la comunità montana che lotta tutti insieme, no? contro la TAV. È un segnale veramente forte e positivo. È un'intera comunità, non diciamo comunità montana, è un'intera comunità di valle, nel senso che proprio sono tutti i cittadini, i comitati, le associazioni, i sindaci, gli amministratori che ormai con un linguaggio abbastanza anche simile, che era molto più differenziato fino a mesi fa. Adesso si sta uniformando anche il linguaggio, perché tutti hanno capito che è importante mantenere la trasversalità, l'unità e il pacifismo. Questo movimento deve essere assolutamente democratico, quindi questo ormai sono patrimonio di tutto questo movimento, e quindi chiunque di noi parla sempre a nome di questo movimento di valle, che prescinde da appartenenze, è un movimento di valle unito, trasversale e pacifico. Quindi in questi giorni si continuerà la lotta? Sì, con modalità diverse, perché poi con le stesse modalità ci sarà domani, per esempio, ci sarà una grossa manifestazione che da Susa ci porterà a Venaus, che è un po' il luogo simbolo di questo movimento, e speriamo di essere in tanti per poter ribadire che a Venaus vogliamo esserci anche noi, vogliamo capire che cosa sta succedendo e poi capire anche se il governo intende andare avanti tenendo migliaia di poliziotti su questo territorio. Grazie mille.